Buonasera signore, buonasera signori, da parte di tutta la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. È una serata speciale quella di oggi. È noto che nel nostro paese purtroppo sono le donne a tutt'oggi a doversi far carico della maggior parte del peso del lavoro di cura dei figli dapprima, della casa, dei genitori anziani e non più autosufficienti, pagando molto spesso un prezzo molto alto in termini di realizzazione professionale e personale. Ne parliamo questa sera con delle ospiti speciali: Gianna Coletti, attrice di teatro, cinema, TV e autrice del libro Mamma Carico, mia figlia ha 90 anni, da cui è stato tratto poi il film che vedrete questa sera per intero, e con Tiziana Franceschi, psicologa dell'AIED, e con Alessandra Limetti, attrice, regista e giornalista, collaboratrice del Corriere dell'Alto Adige e della rivista Il Cristallo dell'Alto Adige, mi scusi. Questa sera comunque è presente in veste di moderatrice. E come di consueto la Biblioteca Provinciale ha allestito una piccola vetrina con delle letture che vi consentiranno di approfondire l'argomento della serata. Tutti i volumi possono essere presi in prestito direttamente qui e restituiti poi alla nostra sede di Via Mendola 5. E noi ci rivediamo giovedì sempre qui al Centro Trevi per una nuova presentazione. Il prossimo volume si intitola Ho camminato con le stelle, 1000 chilometri a piedi verso Santiago de Compostela, e sarà presentato dal suo autore Pino Della Sega. Non mi resta che augurarvi una buona serata e lasciare la parola alle nostre ospiti speciali. Grazie. Buonasera, innanzitutto volevo ringraziare oltre a Gianna Coletti anche la dottoressa Tiziana Franceschi. Tiziana Franceschi è una psicologa che è in forza al consultorio AIED, ringrazio le persone qui dell'AIED qui presenti, ed è una psicologa esperta in psicologia gerontologica. Con lei rifletteremo su che cosa significa questo patto di restituzione che i figli a un certo punto mettono in atto con i genitori. Intanto ci tengo a precisare questo: il film non è tratto dal libro, il film è precedente, da un'esperienza di blog, adesso ce la racconterà Gianna, è stato da questa esperienza sua di vita esistenziale, Laura Chiossone, la regista, ha deciso di trarre un film che non si può chiamare un film documentario, però è un film che documenta un'esperienza reale. Questo film ha avuto un grandissimo successo, ha vinto moltissimi premi internazionali anche, e è sfociato poi in un'esperienza successiva che è il libro sì, tratto dal blog che Gianna ha curato, dal blog che ha curato per parecchio tempo, però ma no, neanche per tanto. Allora, il blog raccoglieva, ragazzi, io mi devo alzare perché non vi vedo, non so voi dove. Oh, adesso vi vedo meglio. No, scusate, mi spiace, no, che me frega. No, dicevo, sì, in effetti prima è nato il blog, subito dopo è uscito il libro. Il blog, io scrivevo delle cose così sulla mia mamma, anche abbastanza divertenti, più o meno come il libro, che non vuole essere una mazzata di quelle tremende. Però condividevo, postavo moltissime lettere che nel frattempo ricevevo, tantissime di donne che vivevano questo problema, disperate, dolorosissime le lettere. Nel frattempo è uscito il film perché la casualità della vita, in quel momento io mi trovavo a lavorare con Laura Chiossone, mia madre aveva già avuto un mezzo crollo, diciamo così, e di conseguenza non mi sono più mossa da Milano. Laura Chiossone, la regista, che all'epoca aveva 37 anni, in quel periodo stava lavorando anche su un documentario per la provincia con i figli, i badanti, eccetera, fa: vengo a casa tua, vediamo un po' la tua vecchia, me ne parli sempre, vedo sempre queste lettere, queste mail che mi scrivi, eccetera. è venuta a casa da noi, niente, si è innamorata primo della mia vecchia e poi del nostro rapporto, ha detto qui ci dobbiamo inventare qualcosa attorno a voi, e così è nato tra 5 minuti in scena. Ha tre linguaggi, ecco, la particolarità di questo film è che è un film documentario perché appunto è la nostra vita, quella mia e di mia mamma. È un film sul teatro perché la storia di questa attrice che sta mettendo su una compagnia sta mettendo su un testo, con questa compagnia di disperati, e poi c'è il vero e proprio film girato appunto su pellicola. Ragazzi, pochissimi soldi, 10 giorni, mentre le scene con la mia mamma le faceva qua a Laura quando poteva, veniva da noi con la sua telecamerina, mia mamma non vedeva, però io l'avvisavo, dico mamma guarda che stiamo girando un film, sei contenta? Sono contentissima. Dopo in 2 secondi già se l'era bella dimenticata, perché è chiaro, la memoria poi è molto corta, no? Di conseguenza è la nostra verità in qualche modo, non... Quando poi partirà il film, no, vi voglio subito alleggerire su una cosa, c'è la scena che sembra che la mamma sia un po' moribonda, guardate, non lo è semplicemente sotto psicofarmaci, lei dottoressa saprà meglio di me che molti malati che sono un po' agitati, ahimè, e anche qui si sarebbe bello capire come mai sono così agitati, quest'ansia tremenda, vanno un po' tranquillizzati. Di conseguenza il geriatra, che forse era venuto 2 giorni prima, aveva sbagliato o aveva provato un nuovo farmaco e poverella me l'ha stroncata. Allora la vedete che è un po' così, ma ripeto, è solo dormiente. Vi ho detto altre cose. Ah, ecco, di conseguenza la mamma non ha imparato le battute a memoria, perché delle volte me lo chiedono, fa come ha fatto a imparare sua madre le battute? Non le ha imparate perché niente, era la nostra vita, appunto. Ecco, ho risposto bene? Cioè, ti vuol dire qualcos'altro? No, basta, mi sento. Volevo parlare un attimo. No, ragazzi, dopo che ci abbiamo poco tempo. Grazie mille. Volevamo parlare un attimo invece del libro. Sì. Allora, questo libro che è stato comunque, ha avuto una genesi lunghina, perché intanto l'hai scritto quando eri in tournée con il Teatro Sabile di Bolzano. Sì, io ho lavorato parecchio con il teatro, sì, quando ero, sì, stavo già abbastanza completandolo. Patrizia Milani, che tra parentesi è tra il pubblico, io che ringrazio, insomma, il fatto che tu sia venuta mi fa molto piacere. Io ho fatto una testa come un pallone, prima con mia madre, per anni, devo dire, è una grandissima ascoltatrice. Savita, morte, miracolo, ma mia madre mi ha fatto molto disperare, ma molto, perché poi una la vede così, dice, ah, che tenerezza, ma guarda che carina. Ragazzi, mia madre mi ha dato del filo da torcere, ma non sono qui per parlare di queste cose. Però devo dire che Patrizia ha sempre non solo avuto un orecchio molto attento, ma anche un cuore molto attento, ed è sempre riuscita così veramente a sorreggermi, e perciò ha sentito tutte le rotture di mia madre, poi ha sentito anche le rotture del libro, perché ha avuto degli scontri tremendi con l'edito. Bene, e anche qui non entro. E insomma, io e Patrizia siamo legate, ecco, diciamo, da fattori materni, senza entrare nei particolari, diciamo così. Ok, sì. Ci racconti un po' la transizione dal blog al libro? Sì, anche qui una cosa molto casuale. Devo dire che sono tutte cose che io non ho cercato. Magari ci sono cose che io cerco tremendamente e non si avverano mai. Non riesco mai a realizzarle. Anche il libro è nato perché durante il blog, e subito dopo è uscito il film, uscirono tantissimi articoli. Abbiamo una rassegna stampa veramente impressionante. Ci fu un articolo molto bello sul Corriere della Sera di Giuseppina Manina, scrisse una pagina parlando del film, del rapporto genitori-figli e parlando del blog. Un editor casualmente lesse l'articolo, andò a spulciare sul blog, dopo mi contattò dicendo, senta, lei vuole scrivere del suo rapporto con sua mamma? E io ho scritto Gli ultimi anni. Naturalmente il libro ha un inizio e una fine, non do consigli perché ho inanellato, se ne l'ha detto, dottoressa avrà capito che ho inanellato una serie di errori, ma come facciamo tutti? Questo è il nostro bello, si fa per dire. E di conseguenza è uscito il libro nell'ottobre del 2015, perciò l'anno scorso è andato in ristampa. Sono molto contenta, soprattutto perché la gente, veramente, io ho tantissimi ringraziamenti. E io rimango anche così molto commossa, perché ricevo delle lettere struggenti, mi fanno molto piacere. Ecco, magari facciamo una lettura per far assaggiare una parte del libro, poi passiamo la parola alla dottoressa Franceschi. Sì. Sì, dai, una letturina. Allora, questo è il momento dove io non mi arrendo. Ecco, uno degli errori che io ho sempre fatto da quando è iniziata questa storia è il fatto che ho non ho mai accettato quello che stava accadendo, che poi è la cosa più naturale del mondo, perché la mamma, voglio dire, aveva 90 anni e passa. Evidentemente non è così vero e non è così naturale. Evidentemente non è così naturale. Allora, dopo pranzo mi sono fermata a casa della mia vecchia per farle passare un po' di tempo facendo del memory training. Allenamento mentale lo chiamano i logopedisti. Unisco l'utile al dilettevole, passo e parto sempre con una vecchia filastrocca milanese. 1, 2, 3. E poi mamma? La pepina la fa il caffè. La fa il caffè con la cioccolata? La pepina l'ha mesamata. Bene. 3 lunghe stringhe. Strangolano una strana strega stringizzita. Brava. E adesso diciamo un bella got. Gianina, non diciamo ben niente perché mi sono rotti i balli. Mia madre si stufa presto di qualsiasi cosa, un po' come un bambino capriccioso. Vuole continuamente che la si intrattenga con argomenti diversi, senza un attimo di tregua. Allora non mi perdo d'animo e le spiego che le filastrocche sono per il suo bene, per non farla rimbambire. Oh, signor, ma quante bambanate inutili! Dammi un fettino d'anguria, Gianna. Ma siamo in inverno, mamma, l'anguria c'è l'estate. Ah, ho capito. E allora non me ne puoi dare neanche un fettino? E no, mamma, che peccato. Ne avevo proprio voglia. Si è grattato una mano e come se niente fosse mi ha chiesto una fetta d'anguria. Allora io, se fossi una persona serena riguardo alle sue condizioni mentali, le risponderei con tranquillità. E invece, immancabilmente, le rivolgo la domanda più inutile che si possa fare. Ma te l'ho appena detto che l'anguria non c'è, ma possibile che non te lo ricordi? Ma se se lo ricordasse, la sua testa funzionerebbe alla grande. Come sempre non riesco ad arrendermi alle sue dimenticanze e con infinita pazienza ho incominciato a spiegarle quali sono i frutti che si trovano nelle varie stagioni e per essere certa che avesse ben compreso l'ho pure interrogata. Adesso mamma, ti faccio dei quiz, sei contenta? Oh signor, non cominciare a gonfiarmi le balle, dai Gianina, guarda che io ci sto con la capoccia, Ma è proprio per quello che dobbiamo mantenere la bella vispa. Allora, in autunno ci sono le... In inverno ci sono le ra, c'è, in primavera ci sono le abito, che, in estate c'è pure la gu, ria, ma vedi che c'è, e allora dammi una fetta! Pentendomi amaramente di averla illuminata, sempre più irritata, ho continuato con la storiella dei frutti di stagione. Non era neanche arrivata la seconda quando mia madre è uscita dal profondo del cuore, ma la vieccia! Ecco, questo è un tipico detto milanese. La mamma sostiene che è solo un consiglio. Se uno vuole, ci va, altrimenti può desistere. Davanti alle sfuriate di mia madre, una parte di me si imbestialisce, l'altra invece si crogiola nel vederla ancora così reattiva. Mi fa ben sperare. Ogni giorno tento di mantenere viva la sua memoria facendole ricordare filastrocche, tabelline, preghiere, dati, proverbi, canzoni, nomi di amici, conoscenti, episodi del passato. Vorrei fermare il tempo e mantenerla per sempre così come adesso, né meglio né peggio, così. Naturalmente questa è una follia, ragazzi, io ci ho pensato dopo, ma bisogna essere completamente fuori. Perché una ecco, questo lo chiediamo alla dottoressa, perché uno pensa di mantenere una persona lì così e come se fermasse il tempo? Perché? Perché siamo fuori di testa, non so di che lei. Perché quella persona è la mamma. Vabbè, la mamma è sempre la mamma. Adesso scusi se mi intervengo con queste scempiaggine, ma adesso mi lascio. Ecco, prego, chiediamo. Allora, buonasera a tutti. Ovviamente dopo questa splendida performance difficile mantenere l'attenzione, però io voglio iniziare proprio ritornando al libro. L'autrice dice: si dice che la vita si sia allungata, ma in realtà ad allungarsi è stata solo la sua parte finale. La vecchiaia occupa ormai una porzione lunghissima del nostro tempo su questa terra e sarà destinata a occuparne sempre di più. Eppure spesso non siamo in grado di gestirla, non l'accettiamo in noi stessi e nei nostri vecchi malandati, quelli di cui dobbiamo prenderci cura, perché non siamo capaci di empatizzare col declino del corpo e della mente, con l'immensa sofferenza che questo comporta. Ancora dice sempre l'autrice, la vecchiaia è in assoluto l'età più difficile da vivere e vorrei che mia madre l'affrontasse nel migliore dei modi, protetta, incoraggiata ed accudita. Credo che il successo di questo libro sia proprio nell'alternanza di grandi verità, come quelle che vi ho letto, che sono davvero delle grandissime verità, e delle descrizioni molto più leggere, e in questa leggerezza però avvertiamo anche proprio la complessità dell'argomento. Ormai non solo la clinica, anche la letteratura si occupa di vecchiaia, e nella consapevolezza appunto che sia un'età difficile, ed è un'età difficile per tanti motivi, qui ci interessa soprattutto l'aspetto relazionale, e l'aspetto relazionale dei figli con i genitori, perché è un po' questo l'argomento che viene affrontato in questa sede. I figli per la prima volta si trovano a relazionarsi con dei genitori che progressivamente perdono le loro autonomie, e loro per la prima volta si trovano in una relazione d'aiuto in cui non ricevono aiuto ma lo devono dare, e questo di solito crea quantomeno sconcerto e spesso anche ansia, perché ovviamente nel prendersi cura dei propri genitori molto spesso si vive il decadimento come la conseguenza di una cura non sufficientemente buona, e quindi questo diventa un carico per i figli che spesso sono unici o al massimo due, e quindi con tutto l'onere che questo comporta. I genitori ovviamente invecchiano, e nel momento in cui si incominciano a perdere le loro autonomie, anche loro sono sorpresi di quello che sta succedendo, sono anche disorientati, e quindi non sempre si propongono nella loro veste migliore. Possono essere confusi, possono sentirsi incompresi, spesso all'inizio, nel momento in cui iniziano a venire meno alcune autonomie, hanno anche difficoltà a delegare, e molti figli sanno quanto è faticoso questo passaggio, no? Perché delegare dei pezzi di autonomia vuol dire in qualche modo allontanarsi da una vita in cui ci si è riconosciuti per una vita, scusate il bisticcio di parole. Quindi la relazione fra genitori e figli diventa una relazione complessa, che sicuramente cambia rispetto a quella che era prima, e può declinarsi in vari modi. Ovviamente risente della relazione che c'è stata prima, per cui può esserci una cura di riconoscenza nel momento in cui i figli riconoscono di avere ricevuto, riconoscono di avere ricevuto attenzione, cura, amore, e quindi sono più disposti a mettersi in gioco in questa relazione, contenendo il condizionamento, l'investimento emotivo, e quindi riescono ad avere mediamente un rapporto più tranquillo. Per altri figli questo momento diventa l'ultima occasione per poter nella relazione sentirsi valorizzati. E allora è chiaro che in questo contesto è molto più difficile prendere la distanza emotiva, non farsi coinvolgere. E nel momento in cui noi ci coinvolgiamo troppo con il nostro genitore, cosa succede? Non lo vediamo più per quella persona che sta perdendo le proprie autonomie, ma lo vediamo nel ruolo genitoriale che ha. E quindi il rapporto diventa molto più difficile, più conflittuale, più pesante. E ovviamente è un momento assolutamente critico, è il momento in cui, e questo avviene spesso, è avvenuto anche per la mamma dell'autrice, c'è un crollo diventa urgente il ricovero in struttura. Questo è un momento assolutamente faticoso perché da una parte c'è il sollievo per essere alleggeriti proprio dal peso della cura, ma dall'altra c'è questa profonda frustrazione per sentirsi in qualche modo responsabili del ricovero. Io non sono capace di tenerti a casa. No, beh, scusi, me. Dottoressa. No, la mamma non è mai stata ricoverata. No, poi da una parte. Pochi giorni quando è successo il. Ma c'è il, come dire, c'è un flash anche su questo argomento. Sì, no? Sì, c'è il ricovero per una riabilitazione, certo, che a me è andata malissimo. Erano 3 settimane, poi io non ho mai pensato. Certo, ma ecco, la riabilitazione. Ok, ma l'entrare in struttura, il decidere di entrare in struttura è sempre un momento che viene mediato e che sempre, allora qui ovviamente era per un discorso riabilitativo, ma nel momento in cui il ricovero è un ricovero perché c'è stato un aggravarsi del quadro patologico, che di solito è polipatologico, ovviamente al sollievo si accompagna la frustrazione e alla frustrazione poi si accompagna anche il senso di colpa proprio per aver abbandonato proprio il genitore in struttura. E qui è chiaro che la presenza dello psicologo diventa importante perché sicuramente il sentirsi accolti e accompagnati nel percorso di, diciamo, istituzionalizzazione, anche se è brutta la parola, permette al familiare di rendersi conto dello stato in cui è, nel senso che il prendersi cura comporta un profondo logoramento a livello psicofisico e l'accompagnamento psicologico permette anche di rendersi conto dei vissuti emotivi che si hanno in questo frangente e può essere d'aiuto anche proprio nell'accettazione di questo processo, che è un processo che si avvia poi a fine vita. Il consultorio AIED, io sono qui e vi parlo di queste cose perché ormai sto acquisendo una discreta esperienza all'interno del centro di lungo degenza Firmia, che è di Bolzano, forse lo conosce. Il consultorio AIED segue un progetto in questa struttura che prevede l'accompagnamento dei familiari e il sostegno del personale. L'idea è proprio quello che prendersi cura delle persone richiede moltissima energia, proprio tanta, e soprattutto richiede tanta energia quando le persone lentamente si avviano a fine vita. E quindi questo progetto parte proprio dall'idea che le persone che si prendono cura hanno bisogno di cura e quindi il mio esserci al Firmian è proprio un pensare di prendermi cura sia dei familiari, vi dicevo, che del personale, che ovviamente ha altrettanto bisogno di sostegno. Teniamo conto che il personale di strutture di questo genere accoglie gli anziani e poi li accompagna a fine vita. Mi commuovo perché penso a degli operatori che piangono quando i loro pazienti se ne vanno, perché perché dopo 6-7 anni, perché i percorsi possono avere durata diversa, si sviluppa anche una relazione d'attaccamento che forse va anche al di là della semplice rapporto e presa in carico del paziente. E quindi in qualche modo volevo così dare un quadro a livello psicologico proprio di quello che succede nel momento in cui i nostri genitori diventano anziani e poi vecchi. Si comincia a parlare di vecchiaia sopra gli 80 anni, nel senso che, nel senso che gli anziani sono dai 74 in poi per ora, i vecchi dopo, e dopo i 94 i grandi vecchi, ma sicuramente tra 5 e 6 anni si sarà spostato tutto di altri 5 anni. Ecco, la tua anche mamma. Lavorerete, no, qui non ci sono molti giovani, ma comunque si lavorerà fino oltre i 70. Ecco, quindi. Gianna, uno di 80 anni sarà un giovinotto, sì, di mezza età. Ecco, Gianna, la dottoressa parlava anche appunto delle figure che accompagnano poi le persone che si trovano nella condizione di seguire e avere anche da battagliare con questi genitori che poi mantengono una loro personalità piuttosto forte, come la tua mamma, insomma, che è sempre stata una donna molto energica. Nel tuo libro si parla tanto un po' di queste vostre battaglie, scaramucce, che probabilmente sono la trasposizione di battaglie che sono state fatte durante tutta la vita. Durante tutta la vita, sì, no, ecco. Infatti non è stato un rapporto idilliaco, no? Anzi, è sempre molto combattuto, conflittuale. Che poi ha coinvolto però anche altre persone. Tu racconti di queste persone che ti hanno dato una mano nelle faccende pratiche, insomma, ad accudire la tua mamma, tra cui ti sono capitate persone stranissime. Ma questa no, coppia, ma no, ragazzi, esatto. Sono i badanti, che certo sono degli estranei, che però improvvisamente fanno parte della famiglia. Non solo fanno parte, ma poi tu, dunque, io sono sempre stata presente, però siccome mia madre era esagitata, io non ce l'avrei mai fatta a ciucciarmela da sola, in poche parole. Allora ho preso prima il badante peruviano, stupendo lui, però dopo un giorno io ho capito che neanche lui avrebbe potuto reggere mia madre, che, credete, mi stroncava un bue. Dico, no, devono essere in due. Lui ha detto, sì, c'è una mia amica, vabbè, insomma, adesso ve la faccio breve. I ragazzi erano fidanzati, io non lo sapevo, ma questo sarebbe il meno. Anche purtroppo non era una coppia facile, avevano problemi di coppia. Questo sicuramente ha influito notevolmente sulla gestione della casa, considerando che poi io ho proprio pensato, per un'idea romantica, siccome avevamo iniziato insieme, dovevamo finire insieme, di conseguenza io ho protratto questa nostra convivenza in mezzo a delle situazioni tremende, che poi nel libro sono state molto sintetizzate, ma sono state assolutamente demenziali. Questo grazie a me, naturalmente, che non prendo decisioni, spero sempre che la vita decida per me. Ci fai un'altra lettura e poi passiamo dal libro. Sì, dai. Allora, no, l'ultima cosa. Quando mia mamma è stata male, io ricordavo sempre, non so perché, avevo continui flashback, continui ricordi di quando lei era giovane, di quando io ero piccola. Mia madre mi ha avuto a 40 anni, meno male, perché se mi avesse avuto a 20 sarebbe stato la fine. Anzi, sarebbe bene che oramai i figli si facessero intorno ai 40, perché con l'età che si è allungata. Ma una cosa che ricordo ed era tremenda: in ospedale, ricoverati, vecchi di 100 anni, venivano i genitori di 80, ma guarda che è tremendo, a cercare la mamma e il papà, mentre io, insomma, voglio dire, insomma, 40 anni di differenza aiutano. Sì, però stavo dicendo, aspetta, dov'è che quella cosa che volevo leggere, che mi faceva piacere? Sì, eccola qua, l'ho trovata al volo. Bene, ecco, io ricordavo sempre mia madre com'era, ecco perché è così difficile, veramente questa donna era un vulcano, veramente ridotto in cenere, tremendo. Puoi vedere, perché nella sua vecchiaia, io vedevo anche la mia, che è una cosa che fa malissimo, malissimo, che uno vorrebbe allontanare, ma come sappiamo non si può, a meno che uno non schiatti prima. Bene, Gianina, questo settembre ricomincio a lavorare, faccio i miei massaggi. Non posso così senza star qui, senza far niente. Guadagna il camion pude da me, un po' di soldi ti possono far comodo. Sai che quello che è mio è anche tuo, no? Allora, dopo aver sentito queste parole, io sono rimasta di sasso. Non immaginavo che mia madre desse i numeri sino a questo punto. No, c'erano state delle avvisaglie, ma non avrei mai creduto si arrivasse a tanto. Oddio, l'idea, al di là dei suoi 90 anni e della sua condizione, non era del tutto campata in aria. Con i massaggi aveva portato un po' di soldi a casa per parecchio tempo. Negli anni 60, se qualcuno le chiedeva che lavoro facesse, lei rispondeva con autorevolezza: «Sono una massaggiatrice, diplomata». Il termine diplomata lo scandiva con molta chiarezza per sottolineare una certa professionalità. Avrà avuto circa 7 anni quando la mamma, per incrementare le entrate durante un periodo poco redditizio in cui mio padre non contribuiva molto al budget domestico, aveva pensato di mettere un'inserzione sul Corriere della Sera: massaggiatrice diplomata, effettua al proprio domicilio, eccetera eccetera eccetera. Una volta pubblicata era stata subissata di telefonate. La prima cosa che le chiedevano era quanto prendeva e quanti anni avesse. Pensavano fosse una squillo, naturalmente, e per giunta diplomata, termine che doveva scatenare chissà quali fantasie erotiche. Dopo aver risposto alle prime chiamate, la mamma si era resa conto dell'equivoco generato da quel tipo di annuncio e appena alzava la cornetta del telefono sparava tutto d'un fiato: «Leggami in fai di 50.000 lire!» «Come mai così tanto?» «Perché sono vergine!» E da qui partiva una serie di... Però... ecco, questa donna con questa forza nella vita si è inventata 1000 espedienti per, così, per farci campare bene. Poi insomma, nel film vedrete, lei ha investito tutto su di me, voleva che sfondassi nel mondo dello spettacolo, sperava diventassi una soubrette. Perciò da bambina ha cominciato a farmi suonare il piano, la chitarra, il pianoforte, lezioni di tip tap, eccetera. Perciò pensate con quale fatica e con i massaggi ha fatto tutto questo, tutte lezioni private. Una potenza e poi la vita, basta, tutto qua. Ecco, tip tap non ti vediamo questa no, sera. No ragazzi, se lo sapevo mi mettevo sulle scappette adatte, però d'altronde qui c'è la tappezzeria, la moquette, non avrei neanche potuto sfoggiare al mio meglio la qualità dei piedi, scusate. Passiamo un attimo dal libro al film, che in realtà è precedente. Sì. Allora, il film, al contrario del libro, è mediato, nel senso che c'è una finzione cinematografica, c'è comunque una narrazione, una sceneggiatura che è una narrazione nella quale è inserita la tua vita. Quindi c'è una sorta di filtro. Certo. Intanto lo sceneggiatore è Gabriele Scotti, no? Ci tengo a dirlo, perché... salvo le scene con la mia mamma, tutto il resto è stato scritto da Gabriele Scotti. In pochissimo tempo, ripeto, in 10 giorni abbiamo girato tipo 2 mesi, 3 mesi di sceneggiatura, che se avessimo avuto più tempo e più soldi, sicuramente il prodotto finale sarebbe stato magari migliore. Comunque sempre di buon livello, mi pare. E quindi diciamo che il tuo figlio... vero, in qualche modo è il libro. Sì, diciamo, quello in cui ti riconosci. Ma ti riconosci comunque nel film anche nella parte di finzione, anche nella parte drammaturgica, quella in cui si racconta la storia di questa attrice. Sì. Perché comunque è la tua vita di attrice che ha dovuto coniugarsi con tutto questo. Sì, no, sì, anche perché è scritto apposta, questa attrice sta sempre montando, adesso è inutile spiegarlo perché lo vedrete, sta montando in scena dove c'è uno spettacolo, dove c'è sempre la figura materna, eccetera. Sì, no, ero abbastanza così, nel senso che io ero preoccupatissima per mia madre, non ho fatto nient'altro che pensare a lei, ho rotto tantissimo anche il mio fidanzato dell'epoca, lo chiamavo un giorno sì, un giorno no, lo chiamavo 4 volte al giorno, non parlavo solo di mia madre. È diventato suo marito nel frattempo. Ha retto nonostante i 25 anni di fidanzamento, ha retto, poi ci siamo sposati dopo che la mamma se n'è andata, perché lei ci ha remato molto contro e così sono convolata a nozze più tardi. Però il libro invece è il discorso di Pano ho potuto toccare più fronti. Naturalmente il libro doveva durare 120 pagine e perciò è abbastanza condensato. Ecco. Però mi pare che ci sia più o meno tutto. Ecco, benissimo. Allora io ringrazio Gianna Coletti, ringrazio la dottoressa Franceschi e passerei alla visione del film. Se qualcuno ha domande da fare ora, facciamo tutte le domande alla fine, così potete avere un confronto tra appunto quanto è stato letto e quanto poi vedrete. Grazie, allora. Grazie mille, a dopo. Farne una anch'io prima che questo. Tu con una grande ironia hai messo in scena tua mamma, che con una grande ironia si è messa in scena, si è messa in gioco. Ci mettiamo qua, ci mettiamo qua, siamo fuori. Ecco. E io ringrazio uno dei miei figli, che è qui, perché mi ha fatto riflettere su una cosa importantissima, dove mi ha detto una volta: però quando le persone diventano anziane, anche se non sono più capaci di fare determinate cose, non le si può trattare come se non fossero più loro stesse. Non si possono, ecco. E questa è una cosa che non è mai venuta a meno però con la tua mamma. No. No, nel senso, per carità, anzi, io l'ho sempre trattata, se avete visto, non è mai stato un rapporto così smielato, sdolcinato, come se veramente tu trattassi una bambina, perché di fatto, ripeto, non è una bambina. Poi probabilmente io non ho figli, di conseguenza non ho neanche questa capacità di che carina mammina, queste cose qua, no. L'ho sempre, anche perché il caratterino della mamma non è neanche mai stato così, insomma, da bimbetta. E di conseguenza non mi ha mai ispirato questo tipo di rapporto, no? Io purtroppo tentavo un rapporto, oserei dire, paritario, ma in modo molto sciocco, ripeto, non avendo accettato nulla, è logico che tentavo sempre di tenerla bella sveglia, no? Bella vispa, sbagliando, comunque. Beh, io credo che sia sempre alla base un grande rispetto comunque della persona che è stata, e del rispetto del rapporto reciproco che c'è stato. Volevo sapere se qualcuno aveva qualche domanda da fare a Gianna sul libro, sul film, su questa relazione burrascosa che dura tutta una vita tra madre e figli. Meno male che è burrascosa, dai, anzi. No, è che quando veramente la mamma ha avuto il crollo che voi avete visto, certo, lì mi si è aperto un mondo, nel senso che intanto non pensavo di amare così tanto mia madre. Anche lei era molto cambiata nei miei confronti, e io ho potuto proprio recuperare il nostro rapporto con lei. Io avevo una grande paura che mi ha poi accompagnato per quei vari anni. Intanto non riuscivo a capire il fatto dell'abbandono, no? di rendermene conto, sì, anzi, mi facevo una paura tremenda, pensavo di non sopravvivere a lei. E poi un'altra delle paure, pensate, sciocchezza, essendo io una persona che piange moltissimo, è certo che mia madre non mi vede, però avrebbe sentito le mie lacrime, la voce spezzata, eccetera, dico: caspita, ma quando arriverà il momento che ci dovremo dire addio, io riuscirò a sostenerla? Non sarò capace, come? Questa magari se ne andrà disperata semplicemente perché io sono patetica e comincio a piagnucolare. Poi invece mia mamma è defunta almeno 4-5 volte, ragazzi, ed è sempre risorta. Io sono stata bravissima, vi giuro, sono stata bravissima, mi sono molto stupita, per me è stata anche una bella sfida, il crollo vero e proprio, come temevo, da parte mia poi non c'è stato. È riuscita a vedersi la tua mamma? No, non è riuscita a vedersi, lei se n'è andata dopo pochi giorni che il film era nelle sale, lei, il suo grande insegnamento, questo attaccamento alla vita straordinario, non immaginavo che una donna potesse lottare così tanto. Questo è stato il grande insegnamento che mi ha dato mia madre. Prima magari me ne ha dati pochi. Questo devo dire che suo malgrado... Il tip-tap, il pianoforte... Sì, ma certo, non ho quello, per carità. Però gli insegnamenti di vita, di comportamenti... Figurati, mia madre è così quasi... Proprio perché c'era la scuola dell'obbligo, non mi avrebbe neanche voluto mandare a scuola, non gliene poteva fregare di meno. L'importante è che sua figlia diventasse una soubrette, per dirti, no? Era una donna che spiazzava moltissimo, no? Ecco, sempre molto difficile parlarne. Io ti do quello che tu hai fatto per me. Ma ragazzi, ma mia madre mi ha fatto... Io dico una testa, ma è anche qualcos'altro. Sin da bambina tremendo, c'è stata una violenza psicologica terrificante. Perché? Perché investi tantissimo su tua figlia, 7 anni, la tratti come un'adulta, perché questa deve lavorare, deve rendere, deve produrre, perché vogliamo vedere i risultati, poveretta, perché questa si è ammazzata di lavoro per me, no? Perciò anche lì non c'è, anche lei non ha mai avuto il rapporto con la bimba, no? Una bimbina che cresce. Sì, nonostante, ripeto, mi ha amato tantissimo, tutti i sacrifici che ha fatto, però c'era dietro magari un altro discorso, no? Quello che lei avrebbe voluto fare nella vita, lavorare nel mondo dello spettacolo, poi è chiaro che l'ha proprio, è tipico, no? Questa cosa l'ha visto nella figlia. Magari ha visto bene, io spero di sì, io sono felicissima di quello che faccio, sia ben chiaro, non rinnego nulla, però da bambina è stata molto dura. Ma lei che chiedeva scusa continuamente, no? Sì, no, ma era, scusa, non, ciò nonostante mi ha succhiato il sangue fino alla fine, no? sono le persone, no? Cioè, per esempio, come mi teneva legata lei, no? Quando ero anche in tournée, eccetera, che non voleva badanti, è una cosa tremenda, una persona che non vuole i badanti, che da una parte la capisco, perché quando tu accetti il badante vuol dire che non sei più capace di badare a te stessa. Però è anche vero che una persona non vedente, con mille problemi, è chiaro che se io sono in tournée la badante ci vuole, no? Infatti poi sono successi mille casini perché questa li ha sempre cacciate e questi abitavano poi da me, altra cosa. Però quando poi io la chiamavo, le dicevo: Giannina, ma io ti amo, Giannino, ma tu sai che sei la luce dei miei occhi. E ho capito, ma questo sarò stata la luce dei suoi occhi, però è sempre un modo per tenerti ancorata. Io non ho bisogno di nessuno, ma non voglio questa gente per i piedi, sono degli estranei, non mi interessano. Te devi esserci, te sei mia figlia, non sei mica un'estranea, no? E è vero, però ragazzi, pensate che peso tremendo, che responsabilità tremenda, no? Vabbè. Posso dire qualche cosa? Ma forse c'è una volta abbastanza voce. No, si sente. Però alla mortificazione che subiscono queste persone anziane, perché ormai io e i miei genitori li ho subiti, e per fortuna mia mamma è stata bene fino all'ultimo. Mio papà invece aveva questi problemi del non ricordarsi. E mia mamma mi ha dato un insegnamento incredibile, perché quando poi io a un certo punto, ma papà, te l'ho detto 100 volte dove sono, e mia mamma, fai più questo, dimmi più, e non mi dimentichi, no? E certo. Penso che... Sua madre è molto saggia, Appunto, io non avevo studiato, però diceva, ma fai prima di dirgli fatto zitta, invece che dire, guarda che te l'ho già detto, E certo, quello lo diciamo un po' a noi. Beh, insomma, un grande amore, una storia di un grande... Però guardi, mia madre non si è mai sentita umiliata, anche perché, ripeto, mia madre, l'ho letto anche nel libro, quando appena avvertiva un fastidio su di lei, non ci metteva niente per mandarmi al diavolo, no? Perciò, insomma, non era la povera donnetta succube, non l'è mai stata, no. Come sarebbe stato per sua mamma di vedersi veramente alla fine nel Guardi, non lo so, tanto è impossibile saperlo, mia madre era cieca, comunque non si sarebbe rivista. Non lo so, questa è una domanda a cui non posso rispondere, non saprei. Comunque lei era molto felice di aver fatto questo film, dico, come mai te hai fatto un film, sei contenta? Sono contentissima, quando ne faccio un altro? Questa era la sua, non so, vabbè, insomma. Abbiamo un'altra domanda, le passo. Allora, due scene mi sono molto piaciute. Il taglio dei capelli che lei con tanta dolcezza ha fatto alla mamma. E poi l'altra della mamma nella finzione che fa quella danza pseudo-sexy, si può dire così, con quella musica in sottofondo. Lei che cosa voleva dire con quella scena in particolare? Ma lei si riferisce, mi scusi, all'attrice, alla regista? Beh, insomma, sì, certo, all'attrice che fa la mamma, che fa mia madre, che fa... Perché? Allora, intanto la regista ha voluto prendere donne che secondo lei erano molto diverse fisicamente, non solo negli anni, ma nel fisico, ognuna ha una bellezza diversa. Lei diceva, guarda, tua mamma, 90 anni, quando tu le slacci la pancera si sente proprio lo stretch, beh, perché secondo me questa cosa è di una bellezza straordinaria. E anche l'attrice che... È una donna sola, no? È una donna sola che anche lei non si arrende all'età che passa e vorrebbe vivere in un certo modo, no? Tanto è vero che cerca di, così, insomma, di essere galante con il mio spasimante, che è bravissimo, già felice, imparato. Ma in me, spesse volte, noi donne ci rendiamo magari anche ridicole, e questo a me fa molto tenerezza. Non vedo mai che una donna si rende ridicola, perché c'è sempre un'immagine scollata poi da quello che noi siamo in realtà, anche quando invecchiamo, no? Io per esempio, ma io dentro mi sento, non so come tutti, immagino, io mi sento giovanissima, mi sento dodicenne, tredicenne, non di più. Poi certo, è chiaro che mi guardo allo specchio e dico, porca miseria, ma com'è possibile che quella lì sono io? Pensa per una persona che invece, no, è stata, tra parentesi, Anna Canzi, che è l'attrice, lei è stata la protagonista, è andata, ha vinto tanti premi nel festival di Cannes con Ermanno Olmi, I fidanzati. Lei era una, appunto, la fidanzata. Però deve essere difficile per una donna, no, invecchiare e accettare la vecchiaia, un'attrice che anche lei aveva fatto molte cose. la solitudine è tremenda, tremenda. È anche un grande coraggio comunque. Funziona comunque. Comunque è un grande coraggio anche a interpretare questo metapersonaggio. Certo, Anna, sì. Sapendo poi la storia che tu vivevi realmente contro la mamma. Mi ha fatto molta tenerezza questo. Beh, insomma, dai, grazie. Perché? Grazie ragazzi, sono commossa, emozionata, dai, tutte le volte che c'è mia mamma, infatti non guardo neanche il film perché ogni tanto mi prendono il magone, però insomma dai, l'ho fatta sta cosa con grande piacere. Perché Gianna è uscita e è ritornata alla fine. Sì, no, ragazzi, mi viene un po', dai, queste scene patetiche, poi uno si mette a piangere, fa scusate, non volevo. Queste robe qua tremende, dai, le evitiamo. Ecco. Adesso che i miei figli sanno cosa li aspetta. Ma l'altro giorno ho venduto un libro, questa vecchia di 93 anni, che stava benissimo, tra parentesi, ha voluto che io facessi una dedica ai figli, ad Andrea e a Simone, puntini puntine, preparatevi. Ma è tremendo, dico, signora, no, la prego, guarda, mi scriva così. Però so se gli ho aggiunto un po' scritto, dico, questo lo dice la mamma vostra, naturalmente. Sono tremende queste vecchie, tremende. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazierei Gianna Poletti, le chiederei di scrivere una dedica ai miei figli, poi per il prossimo ne ho uno che vuole fare il geriatra, quindi evidentemente ha apprezzato molto. Ecco, questa è cosa. Grazie mille Gianna. Grazie a voi.